Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La nostra ambizione è che questo piano per la nuova generazione, così lo abbiamo voluto definire, abbia il consenso che merita tra i diversi paesi. Ma io sono ottimista. È ottimista, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il commissario agli affari economici europei Paolo Gentiloni a proposito di questo strumento che la Commissione europea ha proposto per la ripresa economica. Sapete che è una trattativa che va avanti da tempo per affrontare appunto la crisi economica creata dal coronavirus. Questo strumento varrà 750 miliardi di euro, la maggiore fetta andrà all'Italia. La Commissione indica che si tratta di una proposta storica, una tantum che riflette la dimensione delle sfide attuali, e speriamo che poi questa trattativa continui all'altezza della sfida per appunto attuale. Qualche colpo di tosse per dire che poi parleremo anche del sostegno che chiedono ulteriormente i sindaci a Conte, perché dicono se non arrivano altri fondi saranno a rischio i servizi essenziali per le nostre città. E poi parleremo anche di spazio, insomma, appesantiti da questa situazione da lungo tempo sul pianeta Terra, almeno ci proietteremo verso lo spazio, o meglio saranno gli Stati Uniti che potrebbero partire, se tutto va bene, con una navicella verso la Stazione Spaziale Internazionale intorno alle 22:30, quindi racconteremo questa missione che non si ripeteva, insomma, almeno dal 2011, ma poi ne parleremo in modo dettagliato. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure SMS e WhatsApp, come al solito, al 349-238-6666. Prima di affrontare i vari temi, come sempre con gli ospiti, sintesi della giornata. I dati sul coronavirus in Italia: scende il numero dei malati, ma tornano a crescere le vittime, 117, metà delle quali in Lombardia. Recovery Fund: la Commissione europea presenta la proposta da 750 miliardi. La Presidente von der Leyen sul nuovo piano dice: il virus ci espone alla sfida decisiva della nostra generazione. Nuova lettera dei sindaci a Conte: manovra aggiuntiva o i servizi essenziali nelle città sono a rischio. A Effetto Notte ci sarà il sindaco di Napoli, De Magistris. Ergastolo confermato per Igor il Russo: nel 2017 tra Bologna e Ferrara uccise due persone e provocò altri tre morti in Spagna dopo una latitanza di 8 mesi. Twitter contro Trump: replica minacciosa del presidente americano, seguiranno grandi provvedimenti. Gli Stati Uniti tornano nello spazio, prima missione privata sulla via della Luna e di Marte. Partiamo quindi dai dati della protezione civile forniti quotidianamente sul Covid-19 in Italia. Sono 117 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore, in risalita rispetto al livello più basso da inizio marzo, toccato ieri con 78. In Lombardia nell'ultima giornata se ne sono registrate 58, la metà quindi del dato nazionale, mentre ieri erano state 22. I morti quindi a livello nazionale dall'inizio della pandemia in Italia salgono a 33.072. 8 regioni però: Marche, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e la provincia di Bolzano senza nuove vittime. E si torna a parlare di mascherine. A settembre ci saranno sul mercato solo mascherine chirurgiche italiane. Lo ha garantito il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri in Commissione Affari Sociali alla Camera, sottolineando che per quella data la produzione italiana sarà a pieno regime. Entro la fine di giugno, ha inoltre affermato Arcuri, il commissario e l'amministratore delegato di Invitalia, le 51 macchine acquistate dallo Stato per la produzione dei dispositivi saranno in grado di immettere sul mercato 31 milioni di mascherine al giorno. Il presidente Sergio Mattarella il 2 giugno visiterà in forma privata Codogno, dove è stata la prima zona rossa, il caso 1 del coronavirus, e dove incontrerà a Codogno le autorità locali in municipio. Il giorno prima, il 1 giugno, parteciperà a un concerto al Quirinale in ricordo delle vittime del coronavirus, probabilmente dai giardini del Quirinale. Prima di recarsi a Codogno, si è preso il Quirinale, la mattina del 2 giugno il presidente della Repubblica prenderà parte alla cerimonia di deposizione di una corona all'altare della patria. E intanto c'è l'attesa per le decisioni del governo sulla mobilità tra regioni in vista del 3 giugno. Non arriverà prima di venerdì il via libera alla ripresa della mobilità fra regioni. In vista del 3 giugno il governo attende gli ultimi dati del monitoraggio del Ministero della Salute. A rischiare un rinvio della riapertura dei confini e soprattutto la Lombardia. I governatori del sud chiedono di agire con prudenza. Alimenta polemiche intanto la proposta della Sardegna, sostenuta anche dalla Sicilia, di un certificato di negatività al Covid per i turisti in arrivo dal resto d'Italia. Dal nord i governatori di Liguria e Veneto si dicono contrari, mentre il sindaco di Milano Sala manda un avvertimento. Parlo da cittadino, quando poi deciderò dove andare per un weekend o per una vacanza, me ne ricorderò. Sala abbia la decenza di tacere, specie dopo i suoi aperitivi in pubblico in piena epidemia, replica il governatore sardo Solinas, il quale fa sapere che la proposta verrà presentata nella prossima riunione della Conferenza delle Regioni. Il primo cittadino di Milano ribadisce però che non andrà in vacanza, dove viene chiesto un test. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E passiamo alla trattativa in Europa sugli strumenti per affrontare la crisi economica. È chiaro che le trattative saranno difficili e non saranno chiuse già al prossimo Consiglio europeo di giugno, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel rispondendo a una domanda sulla proposta della Commissione europea oggi sul Recovery Fund e sulle previsioni per il bilancio pluriennale. Il nostro obiettivo, ha detto, è che in autunno si riesca a trovare abbastanza tempo per le consultazioni nel Parlamento europeo e nei parlamenti nazionali in modo che possa entrare in vigore entro il 1 gennaio 2021. Un pacchetto per la ripresa da 750 miliardi con un nome che guarda al futuro. Next Generation EU. Worth 750 billion euro. Next Generation EU, come annunciato dalla Presidente della Commissione von der Leyen, garantirà nelle intenzioni di Bruxelles 500 miliardi sotto forma di aiuti anticrisi a fondo perduto, mentre i restanti 250 sarebbero erogati sotto forma di prestiti veri e propri. Significativo il capitolo Italia all'interno del pacchetto. Il nostro paese dovrebbe ricevere la quota in assoluto più alta, con oltre 172 miliardi, 81 arriverebbero sotto forma di aiuti, 91 come prestiti. Più in generale, la Commissione propone un bilancio europeo settennale da 1.100 miliardi in aggiunta ai 750 miliardi del Recovery Fund, portando così lo sforzo complessivo di budget a quasi 2.000 miliardi, senza contare le risorse già approvate di MES, CIG europea e BEI. I 750 miliardi del Fondo per la Ripresa saranno ricavati innalzando temporaneamente il tetto delle risorse proprie del bilancio comune al 2% del PIL comunitario, consentendo così alla Commissione di andare sui mercati a finanziarsi. Il debito emesso, una forma embrionale di Eurobond, dovrà essere rimborsato tra il 2028 e il 2058. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Reazioni contrastanti nell'Europa 27 di fronte alla proposta della Commissione europea sul Recovery Fund e sulle previsioni per il bilancio pluriennale. Tra i primi a scrivere sui social il premier italiano Conte, ottimo segnale da Bruxelles, dice, va proprio nella direzione indicata dall'Italia. 500 miliardi a fondo perduto e 250 di prestiti sono una cifra adeguata. Ora acceleriamo su negoziato e liberiamo presto le risorse. Su Twitter gli fa eco il premier spagnolo Pedro Sanchez. Include molte delle nostre richieste, la creazione di un Recovery Fund a 750 milioni di euro è un punto di partenza per i negoziati. Dovremo presto raggiungere un accordo per avere accesso alle risorse. Nella proposta della Commissione, quella della Spagna è la seconda quota più alta dopo quella dell'Italia. Colpo di freno invece sull'intervento complessivo per l'annuncio dell'Olanda di trattative lunghe per l'approvazione. L'eurodeputato olandese Jan Epping afferma: siamo quasi a un colpo di Stato, sulla soglia di un trasferimento di competenze senza precedenti. Tenta una mediazione la cancelliera tedesca Angela Merkel. È chiaro che le trattative saranno difficili e non saranno chiuse già al prossimo Consiglio europeo di giugno, ammette, ma rilancia il nostro obiettivo che in autunno si riesca a trovare abbastanza tempo per le consultazioni nel Parlamento europeo e nei parlamenti nazionali in modo che possa entrare in vigore, auspica Merkel, entro il 1 gennaio 2021. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E comunque tra poco torniamo su questo argomento per fare un po' più di chiarezza. Intanto arriva, sempre a proposito di sostegni economici, una nuova lettera da parte dei sindaci, di 13 sindaci italiani a Conte, delle città metropolitane, e chiedono una manovra aggiuntiva, dicono, se no i servizi essenziali nelle nostre città sono a rischio. E per parlarne con Effetto Notte poi sarà ospite il sindaco di Napoli, De Magistris. Centri estivi, parla la ministra per la famiglia e per le pari opportunità Bonetti, che dice: ora la mia priorità è quella di addivenire al più presto all'approvazione di apposite linee guida per la fascia dei bambini 0-3 anni. Ho inoltrato al Comitato Tecnico Scientifico la proposta venerdì scorso 22 maggio, sono in attesa di ricevere la risposta dallo stesso. Lo ha ribadito durante il question time, cioè l'interrogazione a risposta immediata in Parlamento, alla Camera, la ministra Elena Bonetti, ricordando che a decorrere dal 15 giugno 2020 è consentito l'accesso ai bambini e ragazzi di età superiore ai 3 anni nei centri estivi. All'estero, negli Stati Uniti, a proposito dell'afroamericano soffocato dai poliziotti, c'è l'appello di Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, che dice: la famiglia di George Floyd merita giustizia, lo afferma appunto Joe Biden, a proposito della morte a Minneapolis dell'uomo afroamericano rimasto soffocato dopo che un poliziotto gli ha tenuto premuto il ginocchio per 7 minuti sul collo. In un messaggio su Twitter, il candidato democratico alla presidenza ha chiesto un'indagine federale. Sono grato per la prontezza con cui sono stati licenziati gli agenti coinvolti, dice Biden, che meritano di essere ritenuti responsabili per le loro vergognose azioni. E intanto ci sono, dalle ultime agenzie, vedo che ci sono esplosioni di rabbia a Minneapolis appunto per questa vicenda, scontri e proteste. Rimanendo sugli Stati Uniti, Donald Trump, il presidente americano, e la questione Twitter, un rapporto molto intenso che ora affronta la crisi degli 80 milioni di follower. Twitter ha fatto la fortuna di Donald Trump. Il presidente americano, più di tutti i leader politici, è stato capace in questi anni di usare la piattaforma social di microblogging per il successo della sua comunicazione politica, sostituendo i tweet alle conferenze stampa tradizionali, con i giornali costretti ogni giorno a capire cosa scriveva nei suoi tweet il presidente. Il profilo Real Donald Trump ha oltre 80 milioni di follower. Ora è successo che la società californiana, in vista delle elezioni americane di novembre, ha attuato delle rigide regole per evitare i messaggi falsi o le incitazioni alla violenza e all'odio. Per la prima volta, Twitter ieri ha messo la pecetta su 2 tweet di Trump, definiti potenzialmente fuorvianti o falsi. Il presidente americano si è arrabbiato, ha denunciato l'accaduto e ha accusato Twitter di voler interferire nelle elezioni americane, minacciando addirittura di chiudere tutte le piattaforme di social media, colpevoli a suo dire di voler mettere a tacere le voci dei conservatori. Twitter, ha scritto in un cinguettio Trump, ha mostrato ora che tutto quello che abbiamo detto su di loro e i loro compatrioti è corretto. Seguiranno grandi azioni. Intanto, in attesa delle azioni presidenziali, le azioni di Twitter a Wall Street hanno registrato una giornata davvero pesante. Riccardo Barlam, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di nuovo in Italia, adesso con la cronaca, è stato recuperato dai vigili del fuoco il corpo del 22enne che 2 giorni fa è precipitato con un velivolo biposto nel Tevere alle porte di Roma. La scorsa notte i sommozzatori dei vigili del fuoco erano riusciti a individuare con l'uso di un sonar il relitto, constatando la presenza nella carlinga del corpo del ragazzo, e oggi alle 15 si sono concluse le operazioni di recupero. A bordo dell'aereo c'era anche l'istruttore, che però si è salvato. L'ergastolo confermato per Igor il Russo. Nel 2017, ricordate, tra Bologna e Ferrara uccise 2 persone e provocò altri 3 morti in Spagna dopo una latitanza di 8 mesi. Ci sarà poi modo nel corso di questa puntata di ricostruire quella vicenda che tenne col fiato sospeso anche l'Italia, in particolare l'Emilia-Romagna, proprio perché per mesi non si è più trovato e si temeva che potesse fare altre vittime. E adesso un caso veramente raro, eccezionale, una neonata affetta da una rara anomalia congenita, il cui cuore si trova fuori dal torace, ectopia cordis, è stata fatta nascere alla Città della Salute di Torino. Il parto alla 38esima settimana, solo la testa è stata estratta dall'utero, così da permettere alla bimba di ricevere ossigeno dal circolo placentare, cuore e parte del fegato all'esterno del torace, protetti suturando la cute ai margini. Questa è stata un'operazione di salvataggio eccezionale, questa bambina è nata con il cuore fuori dal torace. E poi lo spazio, gli Stati Uniti tornano nello spazio, questa volta con un volo privato. Il tutto dovrebbe avvenire intorno alle 22:30 ora italiana, vedremo, meteo permettendo ed altre cose. Comunque anticiperemo poi e spiegheremo anche di cosa si tratta, insomma, di una missione molto particolare. Per chiudere lo sport, domani il vertice per la ripartenza della Serie A maschile, ma intanto è battaglia legale tra Lega e Sky. Sentiamo perché. Le idee della Serie A su tempi e modi dell'eventuale ripartenza del nostro calcio saranno discusse nel vertice di domani con Governo e Federcalcio. Poi, venerdì, non a caso, 24 ore dopo la riunione generale, è già fissata un'assemblea di Lega. Invece, sul fronte TV è già guerra di carte bollate. Il Consiglio della Lega Calcio ha confermato la linea del rispetto dei contratti. Quindi verrà recapitato a Sky un decreto ingiuntivo per non aver rispettato il versamento della sesta rata da circa 130 milioni di euro come previsto appunto dai contratti in essere. Diverso il discorso per DAZN e IMG che hanno avanzato proposte di versamenti dilazionati che verranno valutati in seguito alla ripartenza delle competizioni. Sky ha invece tenuto una linea più rigida. O la Serie A accettava uno sconto sul modello Bundesliga, richiesta invece irricevibile secondo i club tutelati da accordi differenti rispetto a quelli tedeschi, o non avrebbe pagato. Da qui lo scontro legale. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Calcio maschile e calcio femminile. L'UEFA ha già rotto gli indugi e ridisegnato il calendario dei gironi di qualificazione a Euro 2022 che si disputerà in Inghilterra, fissando le date delle partite. Dal 17 settembre le azzurre di Milena Bertolini saranno in campo a caccia del pass che dà l'accesso alla fase finale. Per il resto tutto bene, verrebbe da dire, ma non è così, perché le donne del calcio italiano restano sospese tra la voglia di tornare in campo e i timori legati al virus. E poi ci sono anche le disparità col mondo maschile da affrontare. Il movimento femminile attende novità per la ripresa della Serie A e c'è chi parla di un ritorno in campo a metà luglio. Avevamo parlato anche dell'appello della capitana della nazionale Sara Gama nei giorni scorsi. Bene, direi che qui si chiude questa prima parte di Effetto Notte, in modo da dare spazio tra poco agli aggiornamenti per la viabilità e poi ratta come la folgore torno per gli approfondimenti con gli occhi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, Roberto Giordano sempre con voi, per i vostri commenti pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666 che è il numero per SMS e WhatsApp, ma so che ormai bisogna dire quasi solo WhatsApp perché è chiaramente è il canale preferito, diciamo, telematico. Allora, tra pochissimo cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questa proposta definita storica da parte della Commissione Europea per rilanciare l'economia del vecchio continente e tra le altre cose in particolare dell'Italia, e poi parleremo di molte altre cose. Ci sarà il sindaco di Napoli De Magistris e ci proietteremo anche nello spazio. Volta da parte della Commissione Europea e mi auguro di tutte le istituzioni europee, perché una crisi senza precedenti si risponde in modo rapido e con uno strumento economicamente molto molto rilevante. Questo strumento molto molto rilevante è il Recovery Fund, lanciato dalla Commissione Europea. Oggi è stato proposto, è stata una proposta. Si tratta di un, insomma, di un pacchetto da 750 miliardi previsti e all'Italia andrebbe la fetta maggiore. Il pacchetto italiano ammonterebbe a 172,7 miliardi. Conte oggi orgogliosamente ha detto, Presidente del Consiglio, siamo stati descritti come visionari perché ci abbiamo creduto dall'inizio. 500 miliardi andranno a fondo perduto, 250 di prestiti sono una cifra adeguata. Ora acceleriamo sul negoziato e liberiamo presto le risorse. La Presidente della Commissione Europea von der Leyen ha detto, ora lavoriamo per un'intesa veloce, visto che la trattativa va avanti, per ora è una proposta. La cancelliera tedesca Merkel ha parlato di una proposta costruttiva e ora appunto ha rilanciato la trattativa che dovrà andare avanti probabilmente oltre giugno. Il presidente francese Macron ha parlato di un giorno essenziale per l'Unione Europea e dice ora avanti veloce. Poco fa anche una nota di Palazzo Chigi che dice la proposta della Commissione Europea è un risultato assolutamente impensabile solo fino a qualche mese fa e un primo passo significativo in vista del negoziato del Consiglio al Consiglio Europeo del 19 giugno. In cui bisognerà portare a casa questo importante risultato. Vorrei far sentire anche un altro passaggio di Gentiloni, che avete sentito poco fa, che naturalmente ve lo ricordo, è commissario europeo per gli affari economici. La nostra ambizione è che questo piano per la nuova generazione, così lo abbiamo voluto definire, abbia il consenso che merita tra i diversi paesi. Ma io sono ottimista. Ottimista, e sentiamo anche il ministro italiano Amendola agli affari europei. La proposta della Commissione è di votare il bilancio europeo di 1.100 miliardi, quindi un bilancio più sostanzioso delle ultime proposte, in cui c'è un fondo chiamato Nuova Generazione Europa, il Recovery Fund, di 750 miliardi, diviso tra 500 miliardi di sussidi e 250 miliardi di prestiti a lunga maturità. Quindi stiamo parlando di un'operazione di quasi 1.850 miliardi, a cui si aggiungono, come dicevo prima, il lavoro della BCE di più di 1.000 miliardi e le tre reti di protezione che abbiamo già approvato di 540 miliardi. Ma adesso ce lo facciamo spiegare molto meglio, molto più nel dettaglio e con molta più chiarezza dal guru della divulgazione economica finanziaria, il nostro Moria Longo del Sole 24 Ore. Caro Moria, bentornato. Grazie per il guru, buonasera a tutti. Diciamo che siamo in una botte di ferro, come si direbbe a Roma con Moria. Allora, quindi è per ora una proposta, ce la spieghi un pochino più facilmente nel dettaglio e cerchiamo di capire anche che cosa diventerà, insomma, quando sarà concreta, quando questi soldi arriveranno effettivamente. Allora, e quando arriveranno non chiedermelo, perché non lo so io e non lo sa nessuno. Si parla comunque non prima del 2021. Già, vuole ancora almeno un 6 mesi. Ecco, prima, tra le dichiarazioni di Gentiloni che ha mandato in onda, quando ha parlato di velocità, ecco, non mi sembra che la velocità sia la caratteristica principale di questo strumento, però no, comunque. Si parla del 2021, no. Sì, sono ipotesi, perché poi bisogna vedere, perché questa cosa andrà approvata da tutti gli stati, tutti i 27 stati dell'Unione Europea, e ce ne sono alcuni, poi parleremo anche di questi. Già, i cosiddetti frugali. I cosiddetti frugali. Sì. Comunque, il fondo funziona così, è un fondo da 750 miliardi, fatto dall'Unione Europea. Questo fondo si indebita sul mercato, quindi i soldi del fondo non li danno gli stati, non li dà l'Unione Europea, ma si indebita, li danno gli investitori, quindi emette dei titoli, tra l'altro anche a lunga scadenza, e raccoglie fondi sul mercato. Ovviamente per raccogliere fondi questo fondo deve essere solido, e la solidità viene data proprio dal bilancio europeo, quindi dalla contribuzione di tutti gli stati. Però i soldi effettivi questo fondo li raccoglie sui mercati e dopodiché li distribuisce secondo le necessità ai vari paesi dell'Unione Europea, quindi stiamo parlando dell'Unione Europea 27, sotto forma in gran parte 2/3 di sovvenzione, quindi sostanzialmente a fondo perduto, e un terzo. Quindi soldi che non dovranno essere restituiti. Non dovranno essere restituiti, e un terzo invece sotto forma di crediti, ancora non sappiamo né a quali condizioni, né come, né quanto lunghi, cioè ancora è tutto molto vago. Va fatto un punto però, ovviamente come dicevo prima gli stati contribuiscono al bilancio europeo, quindi alla solidità dell'Unione Europea, del bilancio europeo, e alla solidità di questo fondo, quindi gli stati devono dare dei soldi. L'Italia si pensa che più o meno, si calcola in base al PIL, si possa dare proprio per questa iniziativa circa 56 miliardi, quindi facendo i conti della serva, sottraendo gli 82 miliardi delle sovvenzioni a fondo perduto che arriverebbero, 56 miliardi che l'Italia dovrà dare nell'arco degli anni all'Unione Europea proprio per questo fondo, il trasferimento netto sarebbe di 26 miliardi, 1,5% del PIL. Quindi di questo ci stiamo parlando se vogliamo fare i conti della serva. Ma la realtà è che questi 500 miliardi di cui all'Italia arriverebbero 82 sotto forma di sovvenzione e 91 miliardi sotto forma di prestiti, quindi quelli da restituire, è un cambio epocale nell'Europa, perché non c'era mai stato un meccanismo che prevedeva di dare soldi agli stati sotto forma di sovvenzione, quindi non prestiti da restituire, ma sotto forma appunto di soldi a fondo perduto. Per cui è vero che poi l'Italia deve in parte dare appunto contribuire al bilancio europeo, quindi c'è un doubt test, ma le due cose sono separate. Qui è veramente un cambio epocale, storico, nel quale l'Unione Europea sta prendendo soldi da tutti, ma li sta ridistribuendo in maniera non proporzionale, per cui ci sarà un trasferimento di fondi dai paesi nordici ai paesi del sud, e soprattutto l'Italia che sarà il principale beneficiario di questi soldi. Quindi è sicuramente una proposta epocale, bisognerà vedere però cosa verrà fuori da questa proposta, perché ripeto, andrà approvata da tutti i 27 paesi europei, e soprattutto ce ne sono alcuni, soprattutto i 4 cosiddetti frugali, Austria, Olanda, Danimarca e Svezia, che sono contrari, anche se sono contrari per un motivo assolutamente opportunistico, e se vuoi ti spiego qual è. Certamente, sono qua che apposta. Prego. Allora, la cosa divertente, tra virgolette ovviamente, è che insieme al Recovery Fund, cioè questo fondo per la ripresa economica, l'Unione Europea sta discutendo anche il nuovo bilancio dell'Unione Europea, perché il bilancio dell'Unione Europea è settennale, quello passato scade proprio nel 2020, adesso stanno negoziando il nuovo bilancio che andrà dal 2021 al 2027. Come ho detto, il bilancio dell'Unione Europea è fatto da appunto contributi che ogni Stato in base al PIL dà all'Unione Europea nell'arco dei 7 anni. Cosa succede? Che alcuni paesi, e proprio questi 4, hanno avuto nel bilancio passato, quello che scade nel 2020, delle agevolazioni, degli sconti, in gergo tecnico si chiamano rebate. Quindi avevano delle agevolazioni rispetto a quello che avrebbero dovuto dare all'Unione Europea. Mm. Gli altri 2 stati che avevano delle agevolazioni erano la Gran Bretagna, che però ormai è fuori, quasi con un piede Europea. Fuori, sì. Sì, un piede, anche un piede e mezzo. Sì. E anche la Germania, l'altro stato che ha sempre avuto delle agevolazioni. Tutti gli altri stati no. Allora, la Germania non sta facendo storie su questo Recovery Fund, anzi, questo Recovery Fund nasce proprio da una proposta di Germania e Francia, quindi franco-tedesca. Invece questi 4 paesi, che sono quelli che hanno i maggiori benefici nella contribuzione al bilancio europeo, sono quelli che stanno facendo storie. Allora, quello che... Ma qualcuno glielo ricorda questa cosa? Certo, quello che viene da pensare è che loro stiano usando il negoziato per il Recovery Fund come, diciamo... arma di ricatto, arma negoziale per cercare di mantenere i privilegi che hanno avuto nel bilancio passato dell'Unione Europea anche nel bilancio prossimo futuro. Quindi, e questo lo so di certo perché una persona che conosco ha chiesto esplicitamente al ministro delle finanze olandese: ma se l'Unione Europea vi garantisce che anche nel prossimo bilancio avrete le stesse agevolazioni, voi votereste a favore del Recovery Fund? E lui ha detto: è molto probabile. Mario Longo è un insider, come avete capito, questo è un retroscena che proprio in esclusiva mondiale qui Effetto Notte Mario Longo ci ha dato, ecco, quello è il motivo opportunistico per cui questi fanno i frugali, più che altro i tirchi, più che altro gli opportunisti, giustamente, giusto? Più che frugali tirchi, sì. Ecco. Per cui io credo che alla fine di un lungo negoziato questo Recovery Fund vedrà la luce. Temo che non avrà le fattezze identiche della proposta di oggi della Commissione Europea, perché qualcosa cambierà. Cioè sarà un po' più ridotto, anche soprattutto per quanto riguarda i fondi, i soldi a fondo perduto. Esattamente, io temo di sì, spero di no, ma è probabile. Però diciamo la battaglia è iniziata e i paesi più ostili sono questi 4 di cui abbiamo parlato e anche alcuni paesi dell'est, perché temono di avere troppo, di mangiare una fetta troppo piccola di questo fondo, per cui io un po' per quello. Moria, sentiamo anche maggioranza e opposizione, per esempio il Partito Democratico, Fiano. La proposta avanzata quest'oggi dalla Commissione Europea della realizzazione di un Recovery Fund, in una dimensione maggiore addirittura di quella proposta da Francia e Germania, rappresenta per noi italiani il compimento esatto della domanda che abbiamo fatto ai nostri alleati europei. Una quantità di denaro ingente per la ripresa del nostro paese e degli altri paesi europei, che significherebbe una svolta storica dell'Europa, esattamente quella che noi abbiamo chiesto. E poi dal centrodestra dell'opposizione Salvini. Noi aspettiamo dall'Europa non più promesse, ma soldi veri. Quindi se dall'Europa arriveranno soldi veri per gli italiani, noi saremo i più felici del mondo. Anche perché ricordo che l'Italia non chiede un favore all'Europa, l'Italia ha contribuito al bilancio europeo in questi anni con 140 miliardi netti usciti dalle tasche degli italiani e finiti a Bruxelles. Quindi noi non chiediamo i soldi dei tedeschi, dei francesi o dei polacchi, chiediamo quantomeno i soldi già pagati dagli italiani. È l'ennesima dichiarazione, però le dichiarazioni della Commissione europea ormai le leggiamo da mesi, gli imprenditori e i lavoratori italiani aspettano i fatti. E poi c'è D'Incà del Movimento 5 Stelle, il ministro D'Incà, che dice un cambiamento rivoluzionario in Unione Europea, in parte appunto come avevi detto Moria, mentre Zingaretti, segretario del PD, dice questa è la direzione auspicata sia dal Partito Democratico che dal governo. Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, quindi all'opposizione, al centrodestra, dice è una proposta non soddisfacente, però è anche vero che a livello politico interno questa cosa del Recovery Fund ha spaccato il centrodestra, perché invece oggi Berlusconi a questa notizia ha parlato di una buona giornata e di buone notizie, Moria. Quindi anche questo, diversi punti di vista. Sì. Forza Italia era favorevole anche al MES, quindi Forza Italia si è smarcata sugli strumenti europei rispetto agli altri 2 alleati del centrodestra in maniera marcata già da prima di questo Recovery Fund. E sinceramente anche la dichiarazione che ha fatto Salvini, di cui hai parlato adesso, cioè che hai fatto sentire abbastanza conciliante alla fine, perché dice adesso vogliamo vedere nel concreto. Esattamente, perché qui stiamo parlando di una proposta. La proposta è bella, ma bisogna che poi diventi pratica e che i soldi arrivino, perché il vero rischio di tutti questi strumenti che ha lanciato l'Unione Europea non è tanto la condizionalità di cui si è parlato per il MES o di tante altre cose. Il problema vero è il tempo. Qui abbiamo una crisi economica che ci è caduta sulla testa da fine febbraio, è fortissima, violentissima, le imprese hanno bisogno di soldi per vivere, già la risposta che ha dato lo Stato italiano, che anche questa è stata forte, ma purtroppo è stata troppo lenta e ancora i soldi stanno arrivando male, con difficoltà, con una burocrazia difficile. Infatti poi parlerò con De Magistris a proposito delle richieste dei sindaci. Ecco, quindi quelli dell'Unione Europea arriveranno ancora dopo, appunto questo Recovery Fund si parla probabilmente dell'anno prossimo, e quindi il problema è che quando i soldi veramente arriveranno sarà troppo tardi. Questo è il vero grande rischio e secondo me è la cosa su cui bisogna stare più attenti, il tempo. Moria, ti devo lasciare con tra i vari messaggi questi, ne arrivano tantissimi. Elisabetta che dice che bene che spiega anche per chi non è del settore, utilissimo, grazie. Alice scrive, bravissimi, finalmente ho capito tutto su Recovery Fund, anche in retroscena non posso più fare a meno di effetto note. Ti rendi conto Moria, ma soprattutto di Moria Longo, non si può fare a meno. Mentre questo ascoltatore, se voglia di rispondere nell'ultimo minuto che ci rimane, dice ma se il fondo si finanzia a prestito ma da soldi a fondo perduto, come farà a ripagare i prestatori? Il prestatore, appunto, questo fondo è garantito dal bilancio dell'Unione Europea, quindi c'è una è proprio quello il problema, il punto. Come dicevo prima, gli stati faranno dei versamenti al bilancio dell'Unione Europea che servono a garanzia di questo fondo. Il punto qual è? Che i versamenti vengono fatti proporzionali al PIL, ma le sovvenzioni a fondo perduto non vengono fatte proporzionali al PIL, ma vengono fatte proporzionali alle necessità di alcuni dei vari paesi. Per cui ci saranno alcuni paesi che verseranno di più e prenderanno poco, altri paesi che verseranno meno e prenderanno di più. È per quello che ho parlato prima di un trasferimento di ricchezza, ed è la prima volta nell'Unione Europea che ci sarà un vero trasferimento di ricchezza dai paesi nordici, che sono quelli più solidi, che hanno tra l'altro avuto il minor impatto del coronavirus, dai paesi nordici e paesi del sud, soprattutto Italia e Spagna, che sono soprattutto l'Italia, che sono i paesi più colpiti e che tra l'altro hanno anche il debito più alto, quindi fanno più fatica a salvarsi da soli. Bene, Moria Longo, a questo punto hai fatto l'abbonamento, penso, effetto note con queste dichiarazioni di ascoltatrici e ascoltatori, ti aspetto molto presto. Grazie caro Moria. Grazie mille, buona serata. Ciao, buona serata. Ci prendiamo questa piccola pausa di riflessione, così facciamo sedimentare tutte queste spiegazioni e poi tra poco dovremo raggiungere, a proposito sempre di questioni di rilancio dell'economia, di sostegno all'economia per questa grave crisi, il sindaco di Napoli, De Magistris. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante, perché qua a fine giornata le raccolgo tutte per voi e poi ne approfondisco alcune con gli ospiti. 349-238-6666, il numero per i vostri commenti via sms e whatsapp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Roberto Giordano sempre con voi. Elena scrive, all'attenzione della bravissima Roberto Giordano, dice vorrei ricordare che un ruolo molto importante nella navicella spaziale SpaceX lo ha l'ingegnere Andrea Valdi, milanese, laureato al Politecnico di Milano, ricordatelo, dice Elena. Allora me lo ricorderò quando tra poco poi parleremo della missione spaziale che sta per partire da Cape Canaveral negli Stati Uniti, ma adesso teniamo invece ancora i piedi molto piantati per terra, perché abbiamo appena parlato delle misure economiche proposte oggi dalla Commissione Europea per affrontare questa pesantissima crisi economica causata dal coronavirus e della parte ingente di fondi che spetterebbero all'Italia, e usiamo il condizionale, è assolutamente d'obbligo, perché intanto bisognerà vedere come prosegue la trattativa, quale sarà l'esito e quando questi fondi arriveranno. Però a proposito di crisi e della necessità urgente di sostegno economico, arriva una nuova lettera da parte dei sindaci italiani a Conte. Ricordate dell'ultima epistola avevamo parlato qui a Effetto Notte col sindaco di Firenze Nardella, no? Ora i sindaci tornano alla carica e scrivono in questa lettera, in sintesi: senza una manovra di aggiustamento urgente e indifferibile salteranno i servizi essenziali di tutte le città italiane. Il rischio, continuano i sindaci, potrebbe essere un drammatico lockdown delle attività che i comuni svolgono quotidianamente per i loro cittadini. Quindi questo è l'allarme trasversale di 13 sindaci delle città metropolitane contenute in questa lettera inviata a Conte, e tra questi 13 sindaci non poteva mancare naturalmente il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che saluto. Grazie per la disponibilità, sindaco, buonasera. Buonasera, grazie a voi. Allora, sappiamo naturalmente che i sindaci sono gli amministratori in primissima fila, no? Quelli che sono sul territorio a stretto contatto con i problemi quotidiani delle persone. Intanto vorrebbe spiegare, sindaco, magari qualcuno sfugge, quali sono i servizi essenziali che voi offrite quotidianamente alle persone, alla popolazione, che potrebbero saltare per questa crisi economica? Ma la nostra preoccupazione è molto seria e molto concreta. Tutti i sindaci delle grandi città, quindi il paese, ovviamente rappresentando anche gli altri che non hanno firmato, hanno voluto lanciare un messaggio forte al governo che, abbandonando i sindaci, stanno creando le condizioni per perdere la guerra contro la tragedia economica e sociale. I servizi significa la raccolta dei rifiuti, il trasporto pubblico, l'illuminazione pubblica, l'assistenza alle persone fragili. Il governo sinora ha mostrato una inadeguatezza e un'incapacità di comprendere quanto sia fondamentale il ruolo dei sindaci, perché i sindaci sono, come dire, coloro i quali stanno ogni giorno per strada, sentono i bisogni, percepiscono le ansie, le paure, sono quelli che in prima linea, no? Il presidente Conte giustamente ci ha chiamato un paio di mesi fa le sentinelle del territorio, una frase molto bella, ma è come la guerra: se tu non ascolti le sentinelle che stanno in prima linea e fa il generale arroccato nel palazzo, stai creando le condizioni per perdere la guerra. E quindi le richieste che fate proprio anche in termini di numeri, sindaco De Magistris, cioè già c'erano stati, no? Mi pare che siano già previsti 3 miliardi dal decreto rilancio per far ripartire le metropoli. Guardi, è un tema politico e un tema economico. Le faccio un esempio, perché così andiamo nel concreto con i numeri. Sì. Il comune di Napoli dal 31 di gennaio, quando è stata proclamata l'emergenza nazionale, ad oggi ha perso 250-270 milioni di euro per mancati incassi. Nel decreto legge ultimo del governo, quello con cui è stato presentato con una grande enfasi e con una grande, come dire, propaganda, noi come comune di Napoli dovremmo incassare, dovremmo, perché ancora non è arrivato niente, nei prossimi giorni 12 milioni, per poi avere forse in estate 50 milioni. Ma il tema è più complesso. I sindaci hanno un grande senso di responsabilità. Nella prima parte del lockdown hanno in qualche modo sostenuto il governo, anche rinunciando a molte loro prerogative, dalle ordinanze, da ruoli di primo piano, dicendo al governo: in questo momento noi siamo qua a presidiare il territorio, ti affidiamo il coordinamento dell'emergenza nazionale. Quindi noi abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio due cose. La prima, non un fiume di denaro, perché siamo consapevoli, come dire, che non è questo il momento, come dire, di chiedere più di quello che è dovuto, però almeno dobbiamo avere il ristoro di tutto ciò che noi non incassiamo più, e poi una serie di misure che sono finanche alcune a costo zero per il governo, comunque che non hanno un impatto significativo sulle casse dello Stato. La seconda questione, la centralità del ruolo dei sindaci, cioè basta con un centralismo regionale e una contraddizione, una distonia tra Stato e Regione. I sindaci devono ritornare a essere i protagonisti della ricostruzione della fase 2, 3 e 4, ricostruzione sociale, economica dei nostri territori. Cioè, per capirci, noi non possiamo essere amministratori di condominio, quelli che vanno a contare la distanza tra i tavolini, o fare i vice sceriffi, o quelli che vanno col battiscopa a punire i cittadini come se fossero delle mosche. A noi sta parlando di assistenti civici, che so che a lei non piacciono, però mi pare che abbiano cambiato ruolo con il giro di un giorno. Abbiamo corretto, è stato un errore di narrazione. Mm. Almeno io parlo da come sindaco di Napoli, a noi non piace l'idea che il colpevole sia il cittadino. Napoli ha dimostrato di avere un grande senso di responsabilità in questa vicenda, abbiamo contenuto il contagio, adesso ci tocca la fase più delicata e i sindaci sono i protagonisti di questa fase. Però mi pare, sindaco De Magistris, che domani ne parlerete di questo con Conte, sì. No? Avete questo incontro e quindi insomma speriamo che abbia le orecchie aperte, il cuore aperto e poi il portafoglio, nel senso che poi guardi, alla fine bisogna... Sì. C'è stata una svolta. Noi sabato ci siamo visti in videoconferenza, adesso è il momento in cui il governo e in particolare il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia comprendano che in pochi giorni, non luglio, in pochi giorni è necessario un decreto legge sui comuni con una serie di punti che indicheremo domani e la ricostruzione del ruolo di prima linea del sindaco e dei sindaci d'Italia che possono mettere insieme la coesione sociale e il rilancio dei nostri territori. Questo non lo facciamo per andare contro il governo, ma per sostenere la ricostruzione del paese che senza i sindaci non può essere realizzata. Quindi o il governo comprende questo oppure sarà rottura. Sindaco De Magistris, prima di lasciarla, a proposito del 3 giugno che tutti aspettiamo per capire se si può uscire dalle regioni, circolare liberamente eccetera, lei sa che la Sardegna chiede il passaporto sanitario, così si è associato anche il presidente della Sicilia Musumeci. Mi pare che lei abbia detto che i lombardi non li gradirebbe molto, diciamo, dalle sue parti. Detta così non è proprio il mio pensiero. Spero, perché io per esempio amo moltissimo Napoli e ho degli affetti importanti in Costiera Amalfitana. Se lei me la dice così, le devo dire che non ha compreso il mio pensiero. Meno io male. Ho fatto un ragionamento, io sono per l'Unità d'Italia e sono vicinissimo alla sofferenza dei lombardi. Faccio un ragionamento però corretto, secondo il mio punto di vista. Per me l'ideale sarebbe questo, dopo 4 mesi, cioè febbraio, marzo, aprile e maggio, dall'emergenza nazionale, auspicheremmo che i servizi sanitari regionali abbiano la capacità di creare un cordone tale con i tamponi. Cioè, la mia proposta è, siccome in Lombardia e in parte anche in Piemonte c'è un contagio ancora evidente, l'abbiamo visto con i dati pure di oggi, nell'interesse di tutti, non dico dei lombardi che vengono in Campania, anche dei napoletani che vanno in Lombardia, probabilmente il tampone obbligatorio è una misura che tutela il cittadino che viene tamponato, diciamo in questo modo, i suoi familiari dove si va a recare, le comunità. E sa che però per il momento è ancora, diciamo, una... Se dopo 4 mesi ancora non siamo in grado di fare questo, io dico che un po' di cautela, d'obbligo è necessaria, perché anche i numeri di oggi mi sembra che lasciano intendere che mentre nel centro-sud il contagio è quasi zero, ormai da circa 25-30 giorni, in Lombardia addirittura oggi si registra un aumento rispetto a ieri, quindi non è una cosa contro la Lombardia, anzi lo voglio sperare. Tutela di tutti. Sindaco De Magistris, io la ringrazio, spero di venire presto ad abbracciare Napoli. E io spero di venire a Milano, perché tutto c'è bisogno, tranne che di una discriminazione nord-sud, sud-nord. Chiaro, abbracciamoci tutti, appena possibile. Grazie Sindaco De Magistris, grazie. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Proseguiamo con le notizie importanti, Roberta Giordano sempre con voi, e parliamo di una sentenza molto attesa, sia per il forte impatto che la vicenda ha avuto, ebbe sull'opinione pubblica, e oltre naturalmente che per l'aspettativa di giustizia da parte dei familiari delle vittime. Ricordate Igor il Russo, alias Norbert Fehr, cioè quel criminale serbo che è accusato in Italia di 2 omicidi commessi nel 2017 tra Bologna e Ferrara. Dopo 8 mesi di latitanza in cui aveva seminato il terrore in Emilia-Romagna, perché non si trovava, si pensava che fosse nascosto qui, là e di là e che potesse creare altre vittime, causare altre vittime, è stato poi arrestato in Spagna nel dicembre 2017 dopo aver ucciso in Spagna un allevatore e due agenti della Guardia Civile. Ora, da allora è in carcere appunto in Spagna. Oggi in Italia per i due omicidi commessi nel nostro paese è stato confermato in appello l'ergastolo. Igor risponde di due omicidi e un tentato omicidio commessi l'1 e l'8 aprile 2017. E ne voglio parlare con chi ha seguito dall'inizio questa vicenda, che è Fabio Tonacci, che è giornalista di Repubblica e autore, insieme a Marco Mensurati, dell'ebook Igor, il russo, un killer in fuga. Buonasera Fabio. Buonasera, buonasera a tutti. Quindi è arrivato praticamente la conferma in appello per quanto riguarda gli omicidi in Italia da parte di Igor il Russo dell'ergastolo. Sì, beh, era diciamo abbastanza scontato. Lui oggettivamente ha confessato tutto, quindi la tentativo, la difesa di dimostrare che non fosse capace di intendere e volere, unico appiglio che si ha in questi casi, non è passato, quindi era evidente. Lui ha sempre rivendicato quello che ha fatto. L'unico reato che, di cui è stato accusato, non in Italia né in Spagna ma in Serbia, che lui sostiene di non aver fatto, di non aver compiuto, è lo stupro di una ragazzina di 16 anni in Serbia. Quello è l'unico reato che lui dice non l'ho fatto io, però per il resto ha sempre rivendicato tutto, quindi insomma l'ergastolo mi sembrava abbastanza scontato, insomma due omicidi, un tentato omicidio, poi in Spagna ci sarà poi il processo per i tre omicidi, però insomma c'erano poche alternative, poche possibilità che potesse, chiaro. Fabio, tra l'altro il procuratore generale oggi ha usato delle parole durissime nei suoi confronti, parlando di un feroce carnefice, dicendo che ha mostrato delle foto del processo spagnolo dove il killer serbo sorride, con le dita fa il segno della vittoria, no? Quindi Giovannini, il procuratore generale, ha detto: accadrà anche per costui come è successo per gli altri, che mai ha speso una mezza parola per quanto ha fatto, non si è mai pentito, dice che spariranno i sorrisi come altri criminali al cospetto del tunnel carcerario, no? Ha usato proprio questa tipo di espressione. Parla proprio di Igor il Russo come un soggetto che ha un killer mosso da una spietata geometria criminale. Devo dire che è una definizione abbastanza azzeccata, perché la caratteristica di questa persona è stata quella proprio di adattarsi a delle condizioni di vita sia in Italia che poi in Spagna. Lui si è spostato, è riuscito a scappare in Spagna dopo gli omicidi, ha cercato un territorio che fosse a lui congeniale, che era molto simile, noi ci siamo andati fino in Spagna, lì al Ventorio, molto simile a quello che sono poi le campagne a metà fra Ferrara e Bologna, dove lui viveva, vi ricordate, viveva in casolari, andava sì nelle case, rubava il cibo, usciva di notte solo con la luna piena, perché proprio per non farsi vedere ma per orientarsi, come fosse un mercenario, insomma lui ha sempre detto, a un certo punto lui ha dichiarato di far parte dell'armata russa, ma in realtà non risulta da nessuna parte che lui sia stato un agente delle forze speciali iperaddestrato. In realtà assomiglia molto di più a un animale selvatico. C'è stato un momento nell'indagine italiana clamoroso, da film praticamente, che vi ricordate che c'è stata la maxi caccia all'uomo, sì, rossa che piano piano si restringeva. A un certo punto è stato scoperto che in quella zona rossa i carabinieri hanno trovato 20 covi, 20 covi intesi buchi per terra, piccole. È stata veramente una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso anche proprio l'Italia e quelle zone in particolare tra Bologna e Ferrara, proprio perché si immaginava, cioè si vedeva, trovavano queste tracce, non si trovava lui e si temeva che ci sarebbero state altre vittime. Per fortuna per il momento è finita così. Grazie Fabio Tonacci e buon lavoro a Repubblica. Grazie a voi. Ciao Fabio. Grazie a voi. Ciao. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. He's Ebbene sì, fortemente appesantiti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, dalle sventure terrene ci proiettiamo verso lo spazio, o meglio lo faranno a momenti due astronauti americani che stanno per partire dagli Stati Uniti per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale. Due curiosità: entrambi questi astronauti sono sposati con delle astronaute, quando si dice le affinità elettive, e la navicella sulla quale viaggeranno per la prima volta non è della NASA, ma è di un privato. E che privato! Ma il resto ce lo racconta un grande appassionato di temi spaziali, qual è il nostro Gigi Donelli. Caro Gigi. Roberta, buonasera a tutti. Ciao. Sì, credo che potremmo sentire, adesso abbiamo sullo sfondo quello che è appunto l'attesa del conto alla rovescia, perché comunque, come hai detto, 22:33 è il momento preciso, quindi fino all'ultimo momento, ecco, tutto sta andando. Abbiamo ancora 35 minuti. Sì, ma c'è il meteo che incombe. Detto ciò, la situazione sembra, come dire, il TIGO, cioè tutti i vari passaggi di controllo sono stati per ora positivi. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto la sua apparizione, l'Air Force One è planato passando proprio davanti, questo, come dire, una cosa che solo i presidenti degli Stati Uniti sono autorizzati a fare. Quella è una zona dove chiunque si prova a mettere in volo viene abbattuto a vista. Lui è atterrato, insomma, sembra davvero che tutto procede. Detto ciò, ne abbiamo parlato anche prima. Senti, questa navicella è di Elon Musk, prima di ogni lancio, voglio dire, i lanci sono soggetti al meteo e quindi a volte tutto vengono rimandati. Succedere. Detto ciò, la missione è in pieno corso. Elon Musk, mi chiedevo. Sì. Il patron di Tesla, no? Lui è sua questa. Il patron di Tesla, l'inventore di PayPal, insomma uno dei personaggi più affascinanti degli ultimi 25-30 anni, sudafricano, naturalizzato americano con passaporto canadese, un personaggio davvero interessante. E sì, questo è il prodotto di un progetto straordinario che ancora una quindicina d'anni fa, insomma, diciamolo, veniva presa per un mezzo matto. Perché è importante questa missione, Gigi? Per un sacco di ragioni. Allora, la prima, per gli americani, perché per loro è il ritorno nello spazio. 9 anni dopo l'esilio, di fatto, americani messi a terra dalla fine dell'operatività dello shuttle. Quindi per 9 anni gli americani, e dunque tutti quanti di fatto, hanno raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale solo attraverso la Soyuz russa, che fa un ottimo lavoro, ma che appunto è un qualche cosa di concepito nel secolo precedente. Qui siamo di fronte invece a una nuova era. Tu hai giustamente citato il privato. Ora, è vero che è privato, ma è un privato un po' particolare. Il committente è il governo degli Stati Uniti. Io lo definirei più un sistema misto, in cui gli Stati Uniti di fatto allargano la base di accesso alle tecnologie. Quindi, insomma, è, ripeto, un privato forse un po' riduttivo definirlo tale. È importante perché di fatto inizia una nuova era. Questa è la prima navicella spaziale concepita in questo nostro secolo e ha degli obiettivi, che è vero che adesso deve andare alla stazione spaziale, ma guarda molto più lontano. Verso la Luna e verso Marte. Grazie Gigi Donelli, qui ci dobbiamo lasciare, ma tra poco vedremo se appunto questo lancio sarà effettuato oppure no, meteo permettendo. Ci sentiamo alle 22.